Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Una buona notizia, a inizio settimana il dato sull'industria italiana di novembre segnala, attenzione, una rondine non fa primavera, quindi è presto per entusiasmarsi, ma è una buona notizia. Segnala che il fatturato è salito per la prima volta dopo 22 mesi di cali continui, siamo alla prima crescita su base annua, quindi novembre 2013 rispetto a novembre 2012 dal dicembre del 2011, da 22 mesi, e dicevo quasi due anni, più 0,4% rispetto all'anno prima, il fatturato della nostra industria. Ancora più significativo, a mio avviso, è il dato sugli ordinativi alle imprese, perché è un dato che anticipa poi quelli che saranno gli andamenti futuri. Hanno segnato un aumento del 3% rispetto all'anno prima, oltre che del 2,3% rispetto a ottobre. Che cosa vuol dire? Ma vuol dire che insomma ripartono gli ordinativi all'industria. Attenzione, la cosa più importante qui è che per la prima volta da mesi, oserei dire da anni, a contribuire a questo buon dato sugli ordinativi alle nostre imprese è stata la domanda interna, il mercato nazionale, e non quella estera, quindi non le esportazioni. Perché lo dico? Perché sono scesi gli ordinativi internazionali dello 0,4%, sono aumentati quelli sostanzialmente sono di pertinenza nazionale, più 5,5%. Di questo parleremo più avanti, così come parleremo invece di una cosa che non è una buona notizia, ma inizia una settimana di fuoco per i contribuenti italiani. Venerdì scadono i termini per i pagamenti di mini IMU in 2041 comuni italiani, e anche l'ultimo giorno venerdì per versare la maggioranza della TARES. Su quest'ultimo tributo è scoppiato il caos, perché la maggiorazione vale complessivamente oltre un miliardo, è un'imposta tutta statale, ai comuni non arriva nulla, così molti sindaci hanno deciso di non riscuoterla a dicembre con la TARSU, e hanno inviato nei giorni scorsi un apposito bollettino F24, in alcuni casi ancora non recapitato. Ci sono tantissime segnalazioni di inesattezze ed errori, addirittura coinvolto il sindaco di Milano Pisapia, che si è visto recapitare dal suo comune, dal comune di cui è sindaco, un pagamento TARES errato, gli venivano attribuite proprietà che non possiede. La battuta è facile, insomma, se arriva un bollettino sbagliato al sindaco dal comune stesso, figuriamoci ai normali cittadini. Caos anche a Roma, dove arrivano bollettini da un euro e F24 per la maggiorazione TARES intestati a cittadini differenti dai destinatari delle cartelle. Io non so come cavolo si possa combinare un tale casino. Tour de force, tra l'altro, anche per il governo, che entro il 31 gennaio dovrà trovare il modo di razionalizzare le detrazioni IRPEF per risparmiare circa mezzo miliardo di euro. Anche di questo parleremo più avanti. Partiremo invece con i temi del lavoro, da un lato perché c'è il rapporto dell'ILO, che è l'International Labour Organization, l'organizzazione internazionale sul lavoro, che fa la fotografia, scatta la fotografia di quanti disoccupati, ma ancora quanti lavoratori sottopagati. Pensate, ci sono 840 milioni di persone che guadagnano $2 al giorno. Nessuno, è chiaro che ci sono costi della vita diversi, però è importante ogni anno vedere come cambia la fotografia dell'ILO. Dall'altro perché c'è stato un accordo di cui i giornali hanno parlato nel fine settimana. A Pordenone, l'impianto in questione Electrolux, una moderazione salariale e flessibilità in cambio della garanzia dei posti di lavoro. Questo è stato proposto ai sindacati, anche perché Electrolux, che è un colosso scandinavo multinazionale, aveva messo in guardia sul rischio concreto che gli impianti italiani restassero, vista la scarsa competitività, che aveva ventilato Electrolux addirittura la chiusura dell'impianto di Pordenone, che vuol dire 1200 addetti e altri 2000 nell'indotto. Non se ne sente obiettivamente bisogno con questi record sulla disoccupazione. Vedremo che cosa è nel dettaglio la proposta degli industriali di Pordenone. Ancora, per quello che riguarda invece la borsa, oggi la giornata è piatta, debole la borsa per quello che riguarda Milano, ma meno 0,15%, Parigi meno 0,20%, Francoforte meno 0,30%, Londra più 0,07%, ancora, sempre Londra con lo 0,07%, l'America più 0,25%, euro su dollaro a quota 1,3566. Tra i titoli segnalo molto bene Luxottica più 3,93%, Saipem più 3,17%, Autogrill più 2% come Tenaris, l'1,70% lo guadagna Todds. Wall Street è chiusa, davo la chiusura di venerdì, Wall Street è chiaramente chiusa, l'abbiamo ricordato anche nell'edizione delle borse. E oltre che DGR, la chiusura di venerdì era allo 0,25%. Ci mancherebbe, dicevo, Luxottica più 3,90, ma bene anche, oltre che Todds più 1,70, Telecom Italia più 1,30, Terna più 1,22, Iux più 1,1%, Salvatore Ferragamo più 0,90%. Ancora grazie per gli auguri di buon onomastico, ma mi sembra il meno. Tra chi va male, pesante il calo della Pop Milano meno 6%, Banco Popolare meno 3,80, Ubibanca meno 3,70, Mediobanca meno 2,5, Popolare Emilia Romagna meno 2,30%, tutte, quasi tutte deboli oggi le banche, non fa eccezione il Monte dei Paschi meno 2%, e Unipolsai meno 1,80%. Volete sapere perché è chiusa Wall Street? È il Martin Luther King Day, e devo dire che poteva andare anche peggio oggi in borsa, visti i dati che adesso ricorderò sul PIL cinese in calo e la questione Deutsche Bank che agita molto la banca tedesca, ma non solo. Il rosso da 1,150 miliardi di euro nel quarto trimestre, sono dati peggiori delle stime. E tra l'altro ricorderete che su Deutsche Bank si è anche aperto il faro, diciamo così, dell'autorità tedesca sul mercato dei cambi, ma oggi negative tutte le banche. 349-238-6666 per i vostri SMS e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Cina, visto che annunciavamo il dato, nuovo rallentamento nella crescita del PIL cinese, fa più 7,7% nel 2013 contro una crescita del 7,8% l'anno prima. Ci sono previsioni di un ulteriore raffreddamento, la crescita del 7,5% se confermata sarebbe, la previsione sul 2014 sarebbe la più bassa dal 1989. Io ricordo che in Cina, so che può sembrare strano, ma il 7% di crescita è lo spartiacque tra espansione economica e invece stagnazione economica, cioè la Cina, per riuscire a urbanizzare quelli che sono circa 15 milioni di cinesi ogni anno, ha bisogno di una crescita del 7%, sotto la quale l'economia viene data in stagnazione. Allora, si è svegliato anche il Fondo Monetario Internazionale, che in un working paper che cosa dice dell'Italia? Dice che le detrazioni fiscali in Italia sono chiaramente elevate e, anche se alcune forme possono essere giustificate, creano distorsioni. E poi se ne esce con un'analisi così, che è la scoperta dell'acqua calda: un sistema fiscale più semplice che riduca i costi per pagare il fisco, i costi per pagare il fisco in Italia, sarebbe un beneficio. Con quello che stiamo per raccontare sulle varie tasse, Tares e Minimu, mi sembra che tutto stia diventando il nostro sistema fiscale tranne che più semplice. quello che riguarda l'Italia, nel biennio 2011-2012 la maggiorazione IRES, quindi restiamo in tema di fisco, sulle aziende energetiche introdotta con la Robin Hood Tax ha determinato un gettito stimato in oltre 2,8 miliardi, 2,4 miliardi pagati dalle imprese del settore elettrico e del gas e circa 400 milioni dalle società petrolifere, quindi Eni in primo luogo, ma non solo. Vedo che molti non hanno capito il dato sulla Cina. La Cina, per mantenere il flusso di urbanizzazione dei 380 milioni, vado a memoria come ultima cifra che ricordo, di contadini ancora presenti nelle campagne, ha bisogno di un tasso di crescita superiore al 7%. Dal 7% in giù la Cina lo ritiene un tasso di crescita non soddisfacente, simile alla nostra stagnazione, in cui non si muove sostanzialmente la struttura produttiva del paese. So che vi sembra tantissimo, perché noi il 6-7% non lo vediamo dagli anni 60 probabilmente, però è il dato che permette alla Cina di avere di mantenere il flusso di urbanizzazione dalle campagne alla città. Qual è la soglia di stagnazione dell'Italia? Beh, diciamo che tendenzialmente gli economisti sostengono che una crescita tra lo 0,4 fino allo 0,8-1% sia ancora una crescita vicina alla stagnazione, che dall'1% in più si possa parlare di crescita vera e propria. Questo per quello che riguarda l'Italia e in generale l'Europa. Comunque ne parleremo, appunto, parleremo degli ordinativi industriali. Adesso però vorrei raccontare ancora qualcosa che riguarda gli scandali di questo, più che gli scandali, gli sprechi, ma anche gli scandali di questo paese, e poi arrivare rapidamente ai dati sulla disoccupazione a livello mondiale, sull'occupazione a livello mondiale e il caso di Pordenone. Di nuovo 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Non partiamo adesso dalla regione Emilia-Romagna, di cui ci occuperemo oggi comunque, ma da un caso che riguarda un privato cittadino, e il mio appello è all'Agenzia delle Entrate, che è così solerte con tanti commercianti, artigiani, abbiamo visto di tutto in questi. Io vorrei sapere, lo dico senza polemica, com'è possibile che un cittadino italiano, si chiama Angiola, non è questo il tema, Armellini. Allora, voi ricorderete la vicenda Armellini. Comunque, faccio presente questa cosa. La signora in questione ha, ancorché come appartamenti riconducibili, ancorché siano intestati a vari soggetti giuridici di diritto estero, ben 1243 proprietà immobiliari, di cui 3 alberghi, nonché appartamenti, la stragrande maggioranza nella capitale, a Roma. 1243 tra appartamenti e alberghi, 1243. Ha nascosto in questo modo al fisco 2 miliardi di euro e ha evaso le tasse, 2 miliardi di euro, e ha evaso le tasse locali sugli immobili, ICI e IMU, per anni. La finanza adesso sta quantificando l'ammontare del mancato versamento dei tributi locali dovuto dall'Armellini, denunciata stamani. È un tesoro da diversi milioni di euro destinato alle casse del Campidoglio, che proprio oggi ha firmato un accordo con le Fiamme Gialle. Ora voi direte, ma come si fa a nascondere al fisco 2 miliardi di euro e non pagare ICI e IMU su 1243 appartamenti e alberghi? Uno dice, magari questa abitava nelle Cayman, abitava su Marte. No, risiede in un lussuoso appartamento attico e superattico nella centralissima Roma medievale, che non era classificato come civile abitazione. E la mappa dei luoghi utilizzati dall'imprenditrice è erede del noto immobiliarista, lo ricordate Armellini, no? Per nascondersi al fisco appare variegata, comprendeva Principato di Monaco, Lussemburgo, Svizzera, Nuova Zelanda, Jersey, Bahamas. Però la signora aveva 1243 appartamenti. superati, neanche classificato come civile. Ma di cosa stiamo parlando? Poi però nei bar abbiamo visto, non ce l'ho, guarda, contestazioni assurde e ridicole per l'utilizzo del plateatico, per l'utilizzo del calcetto invece delle slot machine. Quello va bene, no? Nel paese delle banane. Poi una ha 1243 appartamenti e alberghi, non se ne accorge nessuno. Comunque, andiamo alla regione Emilia-Romagna, così starà un po' zitto chi dice che noi parliamo solo delle regioni centrodestra. Noi parliamo degli scandali che emergono dall'inchiesta della magistratura o della Corte dei Conti e non ce ne frega nulla che siano di centrodestra, centrosinistra o di centro. Ammesso che esista il centro. Allora, tutti promossi i super manager della regione Emilia-Romagna, che a questo punto verranno chiamati dall'MIT di Boston, da Harvard, verranno chiamati per conferenze internazionali, perché su 16 super manager tutti hanno raggiunto gli obiettivi. Presidente Vascherrani, ma è sicuro? Non ce n'è neanche uno su 16 che non abbia centrato un obiettivo. La valutazione per tutti e 16 è eccellente, così arriva il premio che arriva fino a 26.400 euro lordi nel caso di Luigi Benedetti, ex direttore generale dell'Assemblea Legislativa, e poi per gli altri direttori generali è sui 20.000 euro l'anno, un extra che si aggiunge a stipendi medi di 120.000 euro. Tra cui tra l'altro c'è anche Tiziano Carradori, direttore del settore sanitario, che porta a casa una retribuzione da 150.000 euro lordi, e poi ci sarà il premio di risultato. Non ce l'abbiamo con gli stipendi, se sono concordati, né mettiamo in dubbio che i nomi citati possono avere raggiunto gli obiettivi. Obiettivamente è un po' strano che su 16 super manager tutti e 16 abbiano svolto la valutazione eccellente. A noi ricorda un po' il 30 politico, no? Anche perché compilare queste pagelle ha un costo per le casse regionali. Per garantire l'imparzialità di giudizio, infatti, la giunta di Errani si affida a 3 consulenti esterni che danno una mano a stilare i giudizi sull'operato dei direttori generali. In estate erano 130 e di tutti i dirigenti della regione, che sono complessivamente 137 quelli assunti a tempo indeterminato. I 3 saggi costano 48.000 euro l'anno. I direttori, tra l'altro, questo riguarda solo la valutazione dei manager più importanti. I direttori alla guida di diversi settori sono 10, a cui si sommano quelli dell'Assemblea Legislativa e gli altri 5 che guidano le agenzie regionali. Sull'erogazione dei bonus la regione è scivolata anche alcuni giorni fa, perché la giunta è stata condannata dalla Corte dei Conti al risarcimento di alcune indennità pagate ai suoi manager nel biennio 2007-2008. Sono circa 150.000 euro. Anche perché questi super manager hanno tra gli stipendi più alti, come ripeto, della regione. Ma ripeto, 16 su 16 non si può sentire. E poi invece ci spostiamo alla Lombardia, una società della regione della Lombardia che è inutile, ma dovrebbe cercare di pesare e gravare il meno possibile sui contribuenti. Si chiama la holding si chiama Infrastrutture Lombarde, ILSPA. Insomma, ha degli stipendi un po' strani, perché ristoranti di lusso per amici e parenti pagate con carte di credito aziendali, abbonamenti annuali all'Inter, al Milan dati in omaggio ai dipendenti. Il compenso del direttore generale della Infrastrutture Lombarde, che tra retribuzioni standard e benefit vari sfonda il tetto stabilito per legge che lo equipara al presidente, allo stipendio del primo presidente della Corte di Cassazione. È la regione stessa che vuole vederci chiaro adesso, lo dico, è la regione guidata da Maroni che vuole vederci chiaro e ha aperto un'indagine interna sui conti degli ultimi anni, da cui è emerso come numerose spese non risultino ammissibili per una società pubblica e alcuni benefit concessi ai dipendenti, cito testualmente, siano inopportuni alla luce dei principi di buona gestione delle società, delle risorse pubbliche, scusate. Colpiscono infatti gli stipendi generosi ai dipendenti e in particolare quello del direttore generale, ormai dimissionario, Antonio Rognoni, voluto dall'ex governatore Roberto Formigoni 10 anni fa. I dirigenti hanno uno stipendio medio di 140.000 euro l'anno. Di contro una manager della regione ne guadagna 100.000, per i quadri di 70.000 euro l'anno. E poi il direttore generale ha, oltre allo stipendio e benefit, un ulteriore compenso pari allo 0,1 per mille del valore delle commesse dell'azienda, che secondo il report stilato in regione non rispetta il dettato dei codici. Quindi bocca al lupo, buon lavoro alla regione Lombardia per capire cosa c'è dentro le infrastrutture lombarde e se magari questi manager o direttori generali fossero stati scelti per altri criteri, chiedono, non so, rispetto a quelli previsti, o perché comunque gli si dà uno stipendio addirittura più alto dei direttori generali della regione stessa. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora partiamo con i dati mondiali sugli occupati e poi andiamo al tentativo, alla proposta di accordo per mantenere lo stabilimento dell'Electrolux a Pordenone. International Labour Organization, nel 2013 ci sono a livello mondiale 202 milioni di disoccupati, sono 5 milioni in più rispetto al 2012, e stima sempre l'ILO che nel 2018 vi saranno 13 milioni in più di disoccupati. Tra l'altro sale la disoccupazione giovanile, il tasso di disoccupazione mondiale, a chi interessasse saperlo, è del 6%. E poi anche il numero di persone che vivono con meno di $2 al giorno è calato, cala lentamente, ma cala da quando, diciamo, è iniziato questo processo di globalizzazione. Vale la pena ricordare che la globalizzazione ha creato problemi, difficoltà competitive ai paesi già sviluppati, ma ha anche tirato fuori dalla povertà circa 300 milioni di persone in questi 15 anni, per cui è chiaro che per noi che dobbiamo rinunciare a una parte della fetta della torta è un problema, in altri paesi ha significato tirare fuori dalla miseria decine di milioni di persone. Comunque i lavoratori nel mondo che guadagnano meno di $2 al giorno sono 840 milioni, cioè il 27% del totale. Poi è chiaro che dentro il rapporto ci sono fotografie diverse. In Germania i disoccupati sono scesi dall'8,6% del 2007 al 5% attualmente, in Italia invece dal 6% sono raddoppiati, sono passati al 12%, in Francia sono saliti dall'8% al 10%, in Gran Bretagna sono saliti dal 5,5% al 7,5%, negli Stati Uniti sono passati dal pre-crisi al momento attuale dal 4,7% al 7,5%, in Brasile sono scesi dall'8% al 6%, in Giappone sono rimasti stabili. Diciamo che il paese che ha avuto il miglior dato sulla disoccupazione, sarà un caso, è la Germania. E dopo il metodo pubblicità invece andiamo nel nostro piccolo, tra virgolette, a vedere quello che è nel dettaglio la proposta che gli industriali di Pordenone hanno fornito e avanzato ai sindacati per evitare il rischio molto concreto che la casa madre Electrolux svedese chiude lo stabilimento di Pordenone, considerato poco competitivo, vorrebbe dire la perdita del posto di lavoro per 1200 persone più 2000 persone che ci lavorano nell'indotto. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni e adesso parliamo della vicenda di Pordenone. Perché? Perché c'è uno stabilimento, il più importante in Italia, dell'Electrolux, che appunto ha 1200 addetti diretti, altri 2000 nell'indotto. Pordenone, già dalla storia della Zanussi, è sempre stato un polo molto importante nel nostro paese per quello che si chiama settore del bianco. Allora, cosa propone l'Unione Industriale di Pordenone? Propone moderazione salariale e flessibilità in cambio della garanzia dei posti di lavoro. Il prossimo 27 gennaio vi sarà l'incontro tra l'Electrolux e i sindacati. E poi il 4 febbraio il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato il tavolo di settore nell'elettrodomestico. Da quello che abbiamo capito, però, la proposta è arrivata grazie anche alle mediazioni degli industriali di Pordenone. In collegamento con noi il presidente Michelangelo Agrusti. Buonasera. Buonasera, editore. Allora, l'Electrolux, lo chiarisco per chi ascolta, 60.000 dipendenti nel mondo, è una multinazionale svedese, 22 impianti in Europa e ha il 25%, cioè un quarto, del mercato mondiale degli elettrodomestici. In Italia ci sono 4 impianti a Porcia, in provincia di Pordenone, dove si producono le lavatrici, a Forlì, forni e piani cottura, a Solaro, in provincia di Milano, lavastoviglie, a Susegana, in provincia di Treviso, i frigoriferi. Nel 2009 ce ne occupammo già perché venne chiuso lo stabilimento di Scandicci. Allora, Presidente, mi dica la vostra proposta che cosa prevede e anche chi avete utilizzato, chiamiamo così, come consulenza, perché ho visto anche il nome dell'ex Ministro del Lavoro Tiziano Treu, ma non solo. Sì, diciamo che intanto la ringrazio di questa opportunità che ci dà. Diciamo che la nostra proposta naturalmente tiene conto della contingenza straordinaria che è il caso Electrolux, ma non solo, anche il caso di Astandard nella nostra provincia. Ma riguarda un po' l'economia di un territorio e il tessuto manifatturiero di tutto un territorio, quindi non si rivolge esclusivamente la nostra proposta di contratto territoriale alla vicenda Electrolux, anche se i tempi di svolgimento del confronto tra noi e le parti sociali e le organizzazioni sindacali è dettato dai tempi dell'investigazione stabiliti dall'Electrolux per quanto riguarda gli investimenti in Italia ed in particolare a Porcia nel nostro territorio, e ai tempi della probabile cassa in deroga dello stabilimento di Astandard. Dentro questi tempi noi dobbiamo trovare due soluzioni che sono diverse tra di loro, ma incidono contemporaneamente purtroppo in una situazione economica complessivamente in una situazione di grande difficoltà, essendo tutta legata il nostro manifatturiero sostanzialmente in gran parte alla filiera del settore delle costruzioni, quindi mobile arredo, elettrodomestico, ceramica sanitaria, e quindi è un ecosistema che è entrato in grave difficoltà. Per far fronte a questo abbiamo ritenuto di dover assumere un'iniziativa anche molto, molto forte per proporre una legislazione vigente, non potendo noi attendere i tempi in questo momento, ahimè, non prevedibili di soluzioni che possono venire da politiche industriali piuttosto che riduzioni improbabili significative del cuneo fiscale, eccetera, abbiamo deciso di fare noi la prima mossa e di mettere l'Electrolux in primis in condizioni di poter rivedere una posizione che allo stato delle cose, se nulla cambiasse, sarebbe esiziale per lo stabilimento previsto, esistente in provincia di Pordenone, che è poi la casa madre del bianco in Italia per quanto riguarda l'Electrolux. Non dimentichiamoci che tutta la parte elettrodomestico, dei grandi elettrodomestici dell'Electrolux è tutta ex Zanussi. L'Electrolux faceva delle altre cose quando non aveva al suo interno l'ex Zanussi, diciamo. Allora, da questo punto di vista, andiamo poi sul concreto. Lei ha fatto bene a ricordare che non riguarderà solo Electrolux, e ho capito anche bene che non potete attendere i tempi della politica industriale. In questo caso sarebbe più politica fiscale, cioè riduzione del cuneo. Allora, lì c'è il rischio, perché Electrolux lo ha detto chiaramente, perché bisogna contestualizzare, che l'impianto di Pordenone venga chiuso o ridotto notevolmente, perché è ritenuto non competitivo, ho capito, certo, bene? Perché tra l'altro l'Electrolux ha uno stabilimento gemello in Polonia dove il costo del lavoro è all'incirca di 7 euro l'ora contro i nostri 24, ve le faccio un esempio, senza aggiungere gli altri fattori competitivi che sono il costo dell'energia inferiore del 30%, e la tassazione, che la cui tassazione massima in Polonia è del 19%, come da noi, può capire. Come da noi. Esatto. Allora, qui il tema lo anticipo già, tanto so già gli sms, le mail che arriveranno e i messaggi che arriveranno a Facebook. Cosa facciamo? Teniamo, la domanda la faccio, un attimo, Presidente. Cosa facciamo? Teniamo aperto lo stabilimento facendo guadagnare, purtroppo, e ripeto, purtroppo, meno ai dipendenti, oppure teniamo saldo il principio che noi non siamo in concorrenza con altri mercati e chiudiamo lo stabilimento? Allora, voi avete sentito Tiziano Treu, scusatemi per la tosse, Tiziano Treu, l'ex governatore regionale Riccardo Illy, che non è un uomo, diciamo, di destra, brutale, e neanche Tiziano Treu, ministro del lavoro, a lui dobbiamo anche la riforma più importante come inizio sul mercato del lavoro, e anche il presidente del Fondo Italiano di Investimento, Innocenzo Cipolletta, che non può essere nemmeno lui accomunato alla corrente neoliberista, iper diciamo concorrenziale, sposti le fabbriche là dove costa meno il lavoro. Che cosa vi hanno suggerito? Diciamo anche Maurizio Castro, che pur essendo stato per un brevissimo periodo occasionalmente un senatore eletto nel PDL, però è stato uno degli allievi di Marco Biagi, quindi bravo, giusto. Ecco, se dobbiamo dirla tutta. Ecco, noi abbiamo lavorato molto con loro, proprio perché questa non è una proposta che semplicemente taglia salari, questo sarebbe il grosso errore. Intanto ha una componente che sicuramente incide sul costo del lavoro, tenete presente nella misura massima per il caso Electrolux del 20%, ma questo è il lordo, mentre in busta paga concretamente verrebbe tagliato il 7% del salario. Non è poco, non è poco, ma ci sono misure di compensazione di welfare territoriale e welfare aziendale che andrebbero a compensare secondo modelli che noi abbiamo già sperimentato, essendo questo un territorio dove abbiamo sperimentato forme innovative di contrattazione locale, sia in Electrolux, il modello partecipativo in Electrolux è stato uno degli elementi più avanzati in Italia di relazioni industriali, sia per quanto riguarda importanti aziende del legno, dove abbiamo compensato con welfare aziendale riduzioni di salario per poter essere competitivi verso, tenga presente, l'IKEA, di cui siamo tra i principali fornitori. È vero. Allora, dopo il traffico, io bisogna che però lei mi dica in 2-3 minuti a questo punto i punti dell'accordo, cioè 20% in meno sul costo del lavoro, che però, calcolando anche le tasse, lei già lo anticipava, i contributi in busta paga, vuol dire il 7% in meno. Io si ho ben visto del 10% per le piccole e medie imprese, che si effettua rinunciando a premi di risultato, scatti automatici e altre indennità fisse negoziate in passato. Però poi c'è tutto il capitolo che riguarda i futuri aumenti nazionali, super minimi, e quello che invece è l'obbligo, cioè quello a cui si impegnano le aziende. Mi racconti tutto come se fosse una scheda, anche perché, ripeto, non varrà la proposta, che non valga solo per Electrolux, dopo il traffico. Allora, presidente degli industriali di Pordenone, Agrusti, i vari punti, quello in busta paga l'ho già detto io, futuri aumenti nazionali, l'impegno delle aziende, la flessibilità nell'inquadramento e flessibilità anche nel lavoro, e poi il welfare a cui lei faceva riferimento e la partecipazione dei lavoratori a rischio aziendale. La usiamo, ripeto, come se lei ci dovesse fare la scheda. Prego. Bene, allora, innanzitutto l'incremento della contribuzione destinato alla previdenza integrativa, la corresponsione di buoni sferi, parlo del welfare, della componente di welfare, la promozione di integrale costo dell'azienda della sanità integrativa, la corresponsione nei casi previsti dalla legge di ticket per la ristorazione, o di parte di essi, come interventi a sostegno del trasporto collettivo, piuttosto che le attività di natura scolastico-assistenziale, contributi per libri di testo, mense scolastiche, l'offerta di servizi alla persona, asili nido piuttosto che assistenza agli anziani. Questa è la componente di welfare che andrebbe a compensare in buona parte il deficit salariale che si produrrebbe nei confronti dei lavoratori. L'altra componente fondamentale, tenga presente che noi ci siamo ispirati, tutto il gruppo si è ispirato ad esperienze concrete di successo che ci sono state non nel Far East o in Polonia, ma in Germania, con i pacchetti ARZ poi trasformati in legislazione dal governo Schröder in Germania, dalle politiche di comeback di Obama, che hanno portato ad una ripresa importante del manifatturiero negli Stati Uniti. Penso al caso Chrysler, dove si è passati da un costo del lavoro di $32 all'ora ad un costo di 15-16 ore di dollari l'ora. Questo per rilanciare tutto il settore dell'auto, e poi naturalmente quest'anno i salari stanno ritornando rapidamente ai valori precedenti. Quindi il concetto è sostanzialmente questo: dobbiamo abbassare le luci per consumare l'energia che abbiamo, perché se ne consumiamo di più saltano le valvole, e le valvole sono tutte purtroppo saltate. Quindi da lì ripartiamo, come ripartirono in Germania nel 2002, come è ripartito il manifatturiero americano, statunitense. Due domande ancora per lei, però, su questo, alcune le girano anche gli ascoltatori. Quindi voi avete, ripetiamo, ci sono le forme di welfare aziendale, aiuti per la sanità integrativa, buone scuole. Poi c'è questo Mietbestimmung, capisce? Cioè, questa, per parlare in Italia, noi siamo confinati con la Germania. No, io non ho capito però. Il Mietbestimmung, cioè la partecipazione dei lavoratori. Il modello un po' tedesco. Quindi partecipano al rischio aziendale attraverso aumenti di capitale o bond convertibili. Esatto. Flessibilità del mercato del lavoro, limitare le pause a quelle previste dal contratto nazionale, prevedere recuperi più lunghi entro 60 giorni. Le ferie spostate alle domeniche successive. Per le prestazioni eccedenti le 40 ore settimanali, spostare alla domenica le festività del santo patrono locale del 2 giugno, monetizzare le ferie eccedenti le 4 settimane. E quindi uno va in ferie 4 settimane, si accumula più giorni di ferie, gli viene dato l'equivalente monetario. Consentire assunzioni a causali a tempo determinato fino a 24 mesi. Cosa sono le assunzioni a causali? Perché se ci sono dei picchi di produzione, consentire le assunzioni a causali. Allora, due le obiezioni che vengono poste. La prima: chi paga i costi? Perché è chiaro che voi avete cercato, appunto grazie al lavoro anche di chi vi ha aiutato, di moderare il più possibile l'impatto di questo 7% netto in meno in busta paga, che è un 20% in meno per l'impresa, un 7% in meno per il lavoratore. E anche queste richieste sulle ferie, sull'accorpamento delle festività nazionali e quant'altro. Ma per esempio tutta la compensazione di welfare, chi la paga poi? Ma intanto in parte le aziende, perché sulla corresponsione di welfare c'è meno tassazione e nessuna contribuzione. Ah, ok. In parte il sistema convenzioni. Cioè il buono scuola, il buono spesa, il ticket conviene anche all'impresa perché è meno tassato. Seconda cosa, ci sono soggetti della grande distribuzione che ci hanno già dichiarato per esempio la loro disponibilità ad attribuire una scontistica speciale che aderisce a quest'area contrattuale sulle piattaforme alimentari. Questo mi ricorda un po' il modello anche del vecchio, lì era la situazione era opposta. Bravo. Nel senso che lì l'azienda andava molto bene e va molto bene la Luxottica e aveva premiato i suoi dipendenti anche in questa maniera, per queste ragioni sì, e ha premiato i suoi dipendenti pagando non solo l'aumento in busta paga ma anche il welfare aziendale. C'è un vantaggio per l'impresa perché è meno tassata, c'è un vantaggio per il lavoratore perché chiunque abbia un figlio o comunque si veda recapitare un buono spesa o un ticket resto ne ha un vantaggio concreto, solo che è meno tassato. È il modo, lo dico a chi scrive, per aggirare quello che è un carico fiscale allucinante che c'è in questo paese sul lavoratore e rispetto a quello che becca in busta paga, il famoso cuneo fiscale di cui non si sta più occupando nessuno, neanche il governo Letta che aveva promesso interventi importanti. Zanonato, dove sei? Mi dica l'ultima cosa però, scrivono gli ascoltatori, ma non è che tanto comunque l'Electrolux se ne andrà comunque perché noi non riusciamo mai a competere con la Polonia? Abbiamo un comunicato ANSA uscito mezz'ora fa. Sì, l'ho visto, l'Electrolux ha detto bene la proposta. Dove dice la proposta? Certamente non stiamo camminando su un red carpet, per cui sappiamo benissimo che ci saranno altre cose da fare da parte anche delle pubbliche istituzioni, ma noi abbiamo parlato per esempio con il sottosegretario De Vincenti, che è interessato a questo progetto, ha manifestato l'intenzione di metterci dentro delle cose, adesso le dirà lui quelle magari un giorno quali sono rapidamente queste cose. Ma la nostra regione, che è una regione speciale, che vive delle entrate fiscali e quindi dell'IVA e dell'IRPEF, di tutto il lavoro che si produce in questa regione, certamente avrebbe un danno colossale se grandi gruppi come questi andassero via, per un danno fiscale, per cui è chiaro che la regione potrà intervenire nelle modalità possibili dalle regole europee, al fine di, per esempio, sostenere gli investimenti dell'innovazione e gli investimenti per magari nuove linee, certo, di prodotti nello stabilimento, come dice il comunicato stesso di Electrolux. Mm-hmm. Quindi oggi per noi è una giornata importante, perché Electrolux ha risposto tempestivamente, sì, dicendo siete nella direzione giusta, quindi la possibilità di ridiscutere in condizioni diverse su valutazioni che sembravano definitive, per me è un dato importantissimo in questo momento, che mi incoraggia e ci incoraggia. Allora, in bocca al lupo, speriamo che i sindacati lo accettino. Non lo dico perché i sindacati devono accettare qualunque cosa con la pistola alla tempia, dico semplicemente perché mi sembra, due considerazioni: da un lato che ci sia il tentativo di ridurre il più possibile quello che è l'impatto poi del costo per l'azienda. Eccola qua, c'è una nuova agenzia dell'Electrolux che chiede che la CGL di la segreteria generale della CGL di Pordenone, per voce della sua segretaria Giuliana Pigozzo, ha chiesto che adesso l'Electrolux dica cosa intende fare e non si limiti a indicare quali sono i doveri degli altri. Continua la Pigozzo: c'erano anche una serie di contributi per cercare soluzioni condivise, ma la chiave sta nelle intenzioni di Electrolux. Per ora si limita a prezzare gli sforzi e a sollecitare degli altri le sue intenzioni, quali sono. Sì, io chiedo però anche alla CGL di dirci cosa ne pensa di questa proposta, no? Cioè, è il rimpallo delle dichiarazioni. Ho capito cosa dice la CGL, che l'Electrolux dica cosa fare nel futuro come impegno. Però due cose mi sembrano importanti. La prima è che c'è il tentativo di ridurre il più possibile l'effetto del calo in busta paga grazie a questo accordo. L'altro è che è un tentativo di supplire all'assenza della politica, che di questi temi in questo momento non si sta occupando. Grazie al presidente dell'Unione Industriale di Pordenone, Michelangelo Agrusti. Grazie a lei. GR, in bocca al lupo, GR, e poi borsa, produzione industriale, ordinativi e anche il caos delle tasse da pagare da qua a fine gennaio. Alle 18:08 riprende Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Vedo molti messaggi sull'accordo proposto dagli industriali di Pordenone sull'Electrolux, che sarà un accordo comunque quadro e pilota per l'intera area, e molti messaggi sulla politica. Allora, è chiaro che è un tentativo che fanno i distretti industriali o le singole imprese di ovviare a un problema che è il carico fiscale in busta paga, ed è chiaro che a mio avviso a me sembra virtuoso il fatto che si possa cercare di far ritornare dalla finestra i soldi che toglie in busta paga attraverso forme di welfare aziendali, appunto buoni pasto, ticket, buoni per la scuola, per gli asili, per quant'altro. C'è il vuoto della politica, avete ragione. Non vedo l'ora che si chiuda questa vicenda della legge elettorale, ecco perché non capisco certe obiezioni da chi non è mai riuscito a fare una legge elettorale in questi anni. Avete capito, insomma, una parte, un pezzo del PD che adesso tutto con la puzza sotto il naso. Facciamo sto accordo sulla legge elettorale e poi andiamo a occuparci dei temi della nostra impresa, perché se no, se restiamo bloccati sulla legge elettorale, è chiaro che poi tutta la politica, tutta l'attenzione, l'energia dei partiti sono ancora su questo. Poi non ci saranno più scuse per dire non si possono fare le altre riforme che servono al paese. Ok, senza tanta spocchia, a mio avviso, visto che è 2, 3, 4 anni che ne parliamo, nessuno ha ottenuto nulla, siamo ancora qui a parlare di legge elettorale. Allora, da borsa, Andrea Fontana, buonasera. Buonasera, Sebastiano. Radio Corri sulle 24 ore. Senza Wall Street, le borse oggi sono piattine, piatte, invariate Milano, -0,1 Parigi, invariata anch'essa, e ancora +0,1 Londra, quindi invariata anch'essa, -0,30 Francoforte. Male tutti i bancari. Pop Milano -5,90, Ubibanca -4, Banco Popolare -3, Mediobanca -2,5, Popolare Emilia Romagna -2,20, Mediolanum -2,20, Monte dei Paschi -2, Unipol Simon 1,80%. Qui c'è la trimestrale Deutsche Bank che pesa? Sì, certamente è arrivato un po' a sorprendere la mattinata fiacca in negativo. Deutsche Bank ha perso quasi il 5,5% a Francoforte, una trimestrale in perdita superiore al miliardo, non se l'aspettava nessuno. Oneri di ristrutturazione, oneri fiscali vari hanno giustificato questo risultato, ma naturalmente questo ha penalizzato il settore in tutta Europa, tant'è vero che l'indice europeo delle banche è stato l'unico a perdere oltre l'1% e Milano ne ha risentito, chiaramente vendite soprattutto sulle popolari che erano andate molto bene nell'ultima settimana e in questo inizio di anno nello specifico la popolare di Milano ha fatto più 12% dall'inizio dell'anno. Ancora per quello che riguarda i singoli titoli, oggi invece in evidenza Luxottica più 4%, oltre che Saipem più 3,5% e Autogrill più 2,1% come Tenaris, Tod's più 1,7%. Luxottica. Beh, su Luxottica e anche Saipem e Tenaris, scusami. Sì, su Luxottica un ritorno d'attenzione che abbiamo già visto nei giorni scorsi con chi ragionava sulla possibilità di un dividendo straordinario in arrivo, ma sono fondamentalmente le buone prospettive del mercato americano, la ripresa negli Stati Uniti più forte e più accelerata rispetto a quella dell'Europa, il potenziale del rafforzamento del dollaro a alimentare la scommessa degli operatori oggi più 4%. Motivi statunitensi anche per Saipem e Tenaris, nonostante, come tu ricordavi, il mercato statunitense oggi fosse chiuso per il Martin Luther King Day. Saipem e Tenaris che hanno beneficiato delle indicazioni arrivate da una concorrente americana, Schlumberger, che ha visto che vede in positivo sul 2014 e quindi ne hanno beneficiato tutte le società di servizi per il settore petrolifero e per il gas, come appunto Saipem. Ultimi due titoli, Autogrill appunto più 2,14, Telecom Italia più 1,70. Beh, per Autogrill diciamo buone indicazioni sono arrivate dalla lettera al risparmiatore pubblicata dal Sole 24 Ore nel weekend, soprattutto per quanto riguarda la trasformazione e le gare che sono in corso, che vedono protagonista Autogrill nelle aree di servizio autostradali in Italia, l'attenzione appunto per il mercato italiano che attualmente è giudicato un po' sottovalutato in borsa da parte degli operatori, quindi un suo rilancio potrebbe dare beneficio al titolo. Per quanto riguarda Telecom Italia, tutte le possibili indiscrezioni ancora su TIM Brasil, l'intervento di Telefonica secondo alcuni, secondo altri l'impegno del gruppo americano, del gruppo messicano American Movil potrebbe alimentare la speculazione sulla vendita di TIM Brasil, c'è chi ragiona invece anche sulle modifiche alla governance, però il titolo ne ha beneficiato più 1,7% oggi. Migliori e peggiori, Screen Service Broadcasting più 25%, Cell Therapeutics più 19%, Isagro più 14%, Ferrovie Nord Milano più 13%, SNAI più 8,5% e Risanamento più 6,95%, dopo le voci di un reinteressamento, magari ne parleremo nei prossimi giorni. Gabetti Property Solution meno 10%, il peggior titolo, poi la Pop Milano l'abbiamo detta e Deutsche Bank meno 5,60%. Grazie Tom Barak, vedo che mi chiedete Tom Barak sul risanamento, ma insomma, magari ne parliamo nei prossimi giorni. Grazie Andrea Fontana, Radio Coro di Sole 24 Ore, e adesso pensiamo alle scadenze fiscali che attendono gli italiani da qua a fine gennaio, anzi alcune sono proprio da qua a venerdì. Allora, venerdì scadono i termini per il pagamento della mini IMU in 2041 comuni italiani. Anche l'ultimo giorno, venerdì, per versare la maggiorazione della TARES, 30 centesimi al metro quadro. E qui è scoppiato il caos. La maggiorazione vale oltre un miliardo di euro, in realtà è un'imposta statale, se ho ben capito ai comuni non arriva nulla, così molti sindaci hanno scelto di non riscuoterla a dicembre con la TARSU e hanno inviato nei giorni scorsi un apposito bollettino F24, in alcuni casi non recapitato. e si moltiplicano le segnalazioni di errori e inesattezze. Perfino il sindaco di Milano, Pisapia, si è visto recapitare dal suo comune un pagamento di una tara serrato, gli venivano attribuite proprietà che non possiede o non sapeva di possedere, un po' come Scaiola. Però dico, no scherzo, non ne possiede, però la cosa allarmante è che se perfino il sindaco gli fanno un casino sulla sua Tares, figuratevi un privato cittadino, anche fatto la rima baciata. Salvatore Padula, vice direttore del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, aiutaci a capire che cosa sta capitando tra comuni e Stato centrale e poi anche cosa capiterà entro il 31 gennaio, perché il governo deve razionalizzare pure l'IRPE, le detrazioni. Le detrazioni, sì, prego. Sì, certo. Domani sul Sole, ampie pagine. Domani, insomma, tutti i chiarimenti. Va, sulle tasse locali, sul 24, insomma, ormai l'abbiamo imparato. Si deve andare a pagare queste due imposte molto strane in realtà, no? Perché sono due una tantum, cioè si pagheranno adesso, quest'anno, non, poi non si pagheranno, speriamo, più, verranno sostituite, cambieranno nomi, eccetera, eccetera. Sulla minimo abbiamo detto e ridetto, insomma c'è stata questa, diciamo, incomprensione tra lo Stato centrale e i sindaci, quindi quando hanno tolto la seconda rata dell'IMU si sono accorti che ai comuni mancavano un po' di quattrini, un po' di fondi, un po' di soldi, perché i comuni nel frattempo avevano aumentato la loro aliquota dell'IMU sulla prima casa che sapevano sarebbe stata soppressa. E vabbè, è lì adesso si andrà a pagare questa cosa che non è semplicissima da calcolare, devo dire, perché bisogna fare, insomma, calcolare l'imposta base, 4 per 1000, poi verificare che l'aliquota che ha determinato il comune, cioè, e poi sull'importo risultante pagare il 40%, eccetera. Però poi il 24, cioè venerdì, si pagherà anche questa maggiorazione Tares. Che è uguale per tutti, 0,30 centesimi a metro quadro. Il comune, l'imposta, come giustamente hai ricordato tu, va interamente allo Stato, però la riscuotono, diciamo, i comuni, o i comuni devono mandare ai cittadini il bollettino postale o il modello F24 per fare questo pagamento. Molti comuni hanno sbagliato, si sono mossi in ritardo, eccetera. Siccome non arrivavano loro i soldi, il sospetto che siano stati un po' più leggeri. Alcuni comuni, diciamo, più efficienti l'hanno inclusa nella quota di tariffa di tassa rifiuti che hanno riscosso nel 2014, alcuni non l'hanno fatto e oggi, in questi giorni, insomma, vediamo e leggiamo di grossa preoccupazione tra i cittadini, code agli sportelli, ai CAFI, consulenti, eccetera. Insomma, una grande confusione. E poi il 31 la razionalizzazione delle detrazioni IRPEF. Sì, c'è quest'altra vicenda pure, insomma, molto molto significativa. La legge di stabilità prevede che entro il 31 gennaio il governo recuperi, diciamo, circa 500 milioni di euro di IRPEF attraverso il taglio delle detrazioni fiscali, cioè gli sconti per i contribuenti. Quindi maggiori tasse per i contribuenti, maggior risparmio per lo Stato. È previsto, la legge stabilisce che il governo può scegliere due strade, o diciamo un intervento chirurgico andando a dire riduco quest'altra detrazione, oppure un intervento, diciamo, uguale per tutti, portando, riducendo dal 19 al 18% e poi al 17% per l'anno prossimo il livello delle spese detraibili. Adesso, diciamo, il governo si è accorto che questa cosa, insomma, non proprio funziona bene, perché sono tasse in più che probabilmente peseranno anche di più sui redditi più bassi. Ovviamente ogni taglio di questo tipo ha un effetto regressivo, quindi diciamo i contribuenti meno abbienti lo pagano percentualmente in misura maggiore, e come abbiamo scritto sul giornale di ieri, adesso si stanno dando da fare per cercare una via d'uscita, un'alternativa, per esempio ancorando il livello della detrazione al reddito, quindi cercando di penalizzare i soggetti con redditi più elevati. Ma ci sono solo 10 giorni di tempo per farlo, quindi io non so come andrà a finire, però sarà un altro Se non lo sai tu, figurati noi. Comunque domani, ripeto, su Sole tutte le indicazioni. Abbiamo capito cosa è successo anche sul fronte della Tares, perché insomma, non essendo di pertinenza, sospetto che siano stati un po' leggeri, è molto forte. Grazie a Salvatore Padula. Il traffico e poi l'ultima notizia buona: oggi sono tornati a crescere sia il fatturato dopo 22 mesi della nostra impresa, ma soprattutto gli ordinativi alle imprese sono cresciuti grazie alla domanda interna. Presto per dire che abbiamo fatto il giro di boa, ma insomma il dato non va sottovalutato. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Allora, essendo il Martin Luther King Day in America, per questo che ho voluto dire chiusa, usiamo questo remix, diciamo così, del sogno di Martin Luther King. Il nostro sogno è che il dato, molto banale, che il dato di oggi si confermi un'inversione di tendenza. Non so se stiamo sognando occhi aperti, però insomma, gli ordinativi a novembre hanno fatto più 3%, più 5,5% rispetto all'anno prima, grazie alla domanda interna del più 5,5%. La domanda estera ha fatto meno 0,4%, il dato definitivo è più 3, però ripeto, più 5,5% di ordinativi dal mercato interno non si vedevano da tempo, così come era 22 mesi che non vedevamo salire il fatturato della nostra impresa, che ha avuto 22 mesi, quasi due anni consecutivi di calo, più 0,4%, la prima volta che sale dal dicembre 2011. Professor Marco Fortis, editorialista del Sole 24 Ore, nonché docente di economia industriale alla Cattolica di Milano, buonasera. Buonasera. Allora, è un giro di boa oppure è una rondine che non fa primavera? Perché il dato più importante secondo me è quello sugli ordinativi e su una, sembra una ripartenza del mercato interno. Diciamo che appunto dopo 22 mesi di respirazione bocca a bocca, il paziente, cioè la domanda interna, non sembra essere morta, ma ha fatto un primo vagito, quindi questo ci dà un po' di speranza. È ancora presto per indicare una rapida ripresa della domanda interna, però il fatto che anche gli ordinativi interni siano ripresi in maniera abbastanza importante a novembre fa ben sperare. Su quali settori, visto che lei da sempre analizza moltissimo gli andamenti dei vari, quelli che si chiamano distretti o comunque settori industriali? Beh, dunque, nel complesso i settori che vanno meglio sono sempre quelli che rimangono molto aperti alla domanda estera e quindi traggono dall'export un forte impulso alla crescita, quindi sono comportati molto bene nel 2013 i macchinari industriali e anche i tessili, abbigliamento, pelli, calzature ha avuto una buona dinamica, poi anche l'alimentare ha dato il suo importante contributo. Tra i settori non tipici del Made in Italy anche la farmaceutica è cresciuta piuttosto bene. Importante invece per quanto riguarda diciamo gli ultimissimi dati è riscontrare una certa dinamica positiva soprattutto dei beni di consumo per ora non durevoli, perché quelli durevoli rimangono abbastanza al palo. Questo vuol significare che le famiglie hanno ricominciato probabilmente un po' a consumare di più i beni non durevoli, ma ancora non se la sentono di fare spese troppo importanti. Quindi elettrodomestici, auto e quant'altro. Dobbiamo preoccuparci per questo calo dell'export o in realtà diciamo, di tutte le preoccupazioni che abbiamo l'export rimane l'ultima? Beh, i tassi dell'export e soprattutto del fatturato e l'esportazione ovviamente sono meno dinamici in questo momento perché già erano in crescita da molti mesi, per la verità non si sono mai arrestati e il fatturato estero oggi è ampiamente al di sopra dei livelli pre-crisi. Diciamo che negli ultimi mesi dell'anno c'è stato un certo rallentamento delle esportazioni, un po' di tutti i paesi, anche dell'Italia, quindi, e pertanto quello che poteva essere un grande record, cioè di superare i 100 miliardi di attivo manifatturiero con l'estero, forse non ci riuscirà a farlo, anche perché l'Istat ha revisionato i dati di quest'anno e li ha abbassati di un 2-3 miliardi, quindi probabilmente arriveremo con un surplus manifatturiero intorno ai 96-97 miliardi di euro. Lei appunto che conosce bene i vari distretti, i punti di forza li abbiamo spesso ricordati, da dov'è che arriva la concorrenza più preoccupante? Io dico distretti, ma insomma parliamo di produzioni in cui, ne abbiamo parlato molte volte con lei, siamo al numero 1, numero 2, numero 3 nel mondo, dov'è che vede gli attacchi più pericolosi? Diciamo che nei settori tradizionali ormai è stata erosa moltissimo la fascia di basso valore aggiunto, quindi siamo rimasti veramente con il lusso più ambito anche dai nuovi ricchi del mondo, quindi lì una tosatura è stata fatta e rimangono i migliori. Ma prima della crisi, lo raccontavamo nel 2002, nel 2003, mi ricordo benissimo. Certo. Esatto. Mentre per quanto riguarda diciamo i nostri settori di punta, oggi dobbiamo soprattutto difenderci molto nel settore della meccanica, che è per noi un punto di forza fondamentale, e qui bisogna stare attenti anche a quelle che sono le dinamiche dei cambi, perché se l'euro si rafforza troppo, anche competitor come i giapponesi e gli americani possono rifarsi sotto e quindi competere con italiani e tedeschi che hanno una valuta al momento molto forte. C'è anche chi prevede che con l'allentamento del tapering il dollaro possa in qualche misura rivalutarsi, l'euro quindi scendere, e questo potrebbe dare un maggior impulso alle nostre esportazioni di beni strumentali nel corso del 2014. Eh sì, e su questo chiudiamo veramente con un'ultima buona notizia. I have a dream that one day on the red hills of Troy, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Riagganciandomi a quanto lei stava dicendo, oggi il gufo per definizione Dr. Doom, Nuria Rubini, l'economista che per prima anticipò la grande crisi del 2008, oggi non solo vede la ripresa negli Stati Uniti quest'anno più 2,6, l'Europa farà più 1%, Giappone più 1,6, è meno ottimista Rubini sulla Cina. Però soprattutto vede rosa per l'Europa, dice che la fine degli stimoli della Federal Reserve, il tapering a cui lei faceva riferimento, insomma lo stampaggio di dollari, farà calare l'euro a fine anno a quota 1,27 sul dollaro. Quindi vede, professor Fortis, che anche il più nero, il più avvoltoio, il più gufo di tutti gli economisti vede rosa, speriamo, sull'euro, perché alla luce di quello che lei diceva sulla meccanica, a noi servirebbe un euro 1,27, 1,25. Grazie anche a Marco Fortis. Da Sebastiano Barisoni è veramente tutto. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi per un'altra puntata di Focus Economia. Radio 24. La passione si sente.